Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. 6 minuti dopo le 11 in diretta su Radio 24, i Padri Eterni, un'ora intera per parlare di padri, per parlare ai padri. Oggi soprattutto per capire come noi padri possiamo dare una mano ai nostri figli in questi giorni di paura, di allarme, insomma di parole nuove anche, no? che circondano i nostri discorsi con i più piccoli. Credo che sia fondamentale, no? Certo, ma guarda Fede, è una settimana in cui tutto il paese è compatto, no? Nel tentativo di arginare la diffusione di questo virus, e devo dire che questa cosa è anche una cosa bella, no? Cioè, essere uniti tutti verso un unico obiettivo, al di là anche poi, no, della diversità di vedute, della diatriba politica, insomma. E tra l'altro comunque oggi, a proposito del virus e dei bambini, abbiamo anche una buona notizia da dare. Esatto, insomma, quindi ci sarà con noi un esperto e parleremo proprio di questo, per portare anche parole giuste, parole di non dico che si debba banalizzare, no? Però cercare di portare anche briciole di serenità e soprattutto di consapevolezza, perché alla fine i nostri figli, quando non capiscono, poi aumenta la paura, aumenta il panico, aumenta questa sensazione di debolezza. Poi tante altre storie, come sempre, con noi un grande musicista con cui ci divertiremo, poi una sorpresa finale, andremo anche in bicicletta, ma partiamo da un carnevale, partiamo dicendo per l'appunto: io non me ne frego. Sì, noi che qui siamo soli qui, noi sì, soli qui. Fai di me quel che vuoi, sono qui. Faccia d'angelo, David di Michelangelo, occhi ghiacciolo, danno le cose che mi piacciono. Ci son cascato di nuovo, tu sei mia, tu sei più, già lo so, che poi lì che non so più poi chi trovo. Sono qui, fai di me quel che vuoi, fallo davvero. Sono qui, fai di me quel che vuoi, non mi sfiora nemmeno. Oh sì, sì, me ne cantava frego. Me ne frego, Achille Lauro. Sono passato un paio di settimane da Sanremo, ma oggi ci torneremo anche con l'ospite successivo, ma ne parliamo, perché insomma questa no, foto, questa qua è clamorosa. Sì, i nostri complimenti. Sai quando da papà dici accidenti, perché non ci ho pensato io. Siamo a Gioiosa Maria, in provincia di Messina. C'è stato un carnevale, un bel carnevale. C'era una famiglia, padre, madre e due figli. E da cosa potresti vestirti a carnevale? Da Zorro? No, non... Da principessa? No, da coronavirus. Ce n'erano alcuni in questi giorni, sempre appunto per sdrammatizzare. No, questa allegra famiglia capitanata da papà Ninitto e Ninitto Giuffrè, per la precisione, tutti e quattro hanno deciso di vestirsi da Achille Lauro. Ciao Ninitto, benvenuto ai Padri Eterni. Buongiorno. Nino. Vabbè, non ti facciamo cantare, perché va bene travestirti. No. Allora, intanto, a chi è venuta l'idea? Allora, l'idea semplicemente viene sempre a mia moglie, siamo l'ideatrice mentale, ecco. Poi noi, io e mia suocera, che è una sarta, facciamo il resto per, ecco, riuscire a... Perché ormai a Gioiosa Maria, diciamo che ci aspettano tantissimo ogni anno, perché facciamo sempre delle cose bellissime, quindi diciamo, ogni anno cercano sempre. Quindi quest'anno, ecco, avete esordito. Abbiamo pensato a questo. Ma quindi Nino, l'intera famiglia si è vestita dalle varie incarnazioni, diciamo così, di Achille Lauro, che abbiamo potuto ammirare sul palco di Sanremo, no? Quindi tu ti sei vestito da con la mantella nera e oro da San Francesco. Ma con la tutina sotto? Tu eri quello in tutina? Sì. No, tu guarda, ma tu sei uguale, te lo giuro, tu sei, è una cosa impressionante, potresti, ma no, ti volevo chiedere, ma diciamo i ruoli, come avete deciso di distribuirli? Cioè, avete fatto scegliere per primi i bambini? Come avete fatto? Sì, diciamo che essendo in quattro già è venuto facile, già, ecco, i quattro vestiti, quindi già è venuto facile questo. Poi diciamo che ci siamo un po' interpretati tra i vari personaggi. Mia figlia Diletta, ecco, è sempre quella che, essendo un po', ecco, una regina, quindi di casa, quindi è giusto che facesse con l'interpretazione. Tancredi, l'altro maschietto, ecco, lo vedi anche in foto che comunque ci sta. Io purtroppo mi hanno beccato per mettermi, ecco, questa benedetta tutina, quindi diciamo, ecco, mia moglie è rimasta la... La marchesa, ecco. Ecco, Nito, stiamo pubblicando la foto sulla nostra pagina di Facebook, i padri eterni di Radio 24, così insomma tutti non gli ascoltatori. Come no? Tutti gli ascoltatori potranno andare ad ammirare. Ti metto nella versione ancora col mantello. Così per l'anno prossimo ci pensate meglio. ma la domanda per te è: gli altri papà, come hanno commentato questa cosa? Ti guardavano e dicevano: accidenti, anche noi potevamo fare questa cosa, o scappavano, sorridevano, insomma, come reagivano? Diciamo che ecco, scappavano e sorridevano alcuni, perché comunque con la tutina di sotto, sai, poi perdi un po' di cosa. Comunque insomma, un bel gioco. Sì, diciamo che per carnevale ci sta tutto comunque. Tra l'altro voi siete degli abituè più o meno del carnevale di Gioiosa, cioè non è il primo anno che fate una cosa del genere? No, siamo, prima eravamo io e mia moglie da fidanzati, abbiamo continuato sempre comunque, quando sono arrivati i bambini li abbiamo coinvolti anche dal primo anno, mia figlia Diletta, figurati che anche mia moglie era incinta perché si differiscono di un anno, quindi ecco, mia figlia Diletta ha fatto il punterolo rosso negli anni quando purtroppo c'era successa questa cosa delle palme che andavano, quindi ci è venuta quell'idea, e mia figlia Diletta era vestita da punterolo rosso anziché da principessa come tutte le altre bimbe da 6 un anno. Beh, ma è una bella idea, no? Anche per passare del tempo insieme, passare una giornata insieme. È finito il carnevale? No, ancora no, noi qua ancora fino a martedì. Ma quindi replicate? Replichiamo, oggi usciamo in un paesino accanto qua vicino, che si chiama Brolo, che fanno anche feste dei caretti, dei rollici, questi qua, e quindi sì, fino a martedì ancora. Ah, quindi andate andate anche in tournée proprio? Sì, ormai ci richiedono. Vabbè. No, quindi dai bene l'informazione, oggi dove sarete? A Brolo. Brolo, ok. No, sì, è un paesino accanto qui a Gioiosa Marea. Perfetto, insomma sarà facile riconoscervi, credo. Quindi... Sì. Ormai non passiamo inosservati, ecco. Vabbè, insomma, parliamo sempre, no, di cose da fare insieme, padre e figlio, da cose da fare insieme in famiglia, giocando anche sulla originalità. Bravo. E sulla capacità di ridere insieme, di non prendersi neanche troppo sul serio. Questo credo che sia un bellissimo esempio. Bravissimo, anche coinvolgere i bambini è importante secondo me pure, perché comunque ecco, crescono con un po' più di cosa verso la famiglia. Ecco. Certo, c'erano anche ricchi e poveri che potevano essere un'altra idea per vestirsi. Ci stavo pensando. Magari, vabbè. Grazie davvero Ninetto, un saluto a tutta la famiglia. Grazie a voi, buona domenica. A te, ciao. Ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i padri eterni. Padri eterni. È nel nome del progresso il dibattito sia aperto. Parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti, tutti intorno a una pezzale di un malato molto grave. Anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Così giovane è un peccato che si sia così conciato. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Come parlare di coronavirus? Come parlare di coronavirus ai propri figli, ai più piccoli, in questi giorni dove, appunto, come dicevamo anche poco fa, sentono e vedono la paura, sentono e vedono immagini di città deserte, di persone con le mascherine, vedono il terrore anche, no? Negli occhi della gente, ma soprattutto poi ci sono già anche azioni concrete che stanno cambiando la loro quotidianità. Abbiamo sentito a Milano le scuole chiuse, campionati che si fermano, il blocco delle gite scolastiche, delle uscite didattiche. Ma indubbiamente percepiscono questa sensazione di insicurezza, quindi scegliere le parole giuste mai come in questi momenti è fondamentale. E per affrontare questo argomento abbiamo chiamato un esperto, è docente di storia della medicina all'Università Vita Salute del San Raffaele, padre di due figli, si è occupato anche di divulgazione scientifica per i più piccoli. Diamo il benvenuto ad Andrea Grignoglio. Ciao Andrea, eccoci qua. Buongiorno, ciao Andrea. Insomma, faremo le domande un po' all'esperto e un po' al papà, perché insomma le due cose poi in questo caso coincidono. Intanto, secondo te bisogna parlarne o bisogna quasi nascondere, no? il momento di allarme? Qual è l'approccio giusto con i nostri figli? Beh, ci sono, come dire, due orientamenti, in effetti. Quelli che un orientamento pedagogico, secondo me, più conservativo, che tende a dare le informazioni forse troppo filtrate, e invece un approccio che invece appartiene un po' alla mia idea, che è quello comunque di coinvolgere i figli sulle grandi questioni, perché di fatto hanno tutti gli strumenti cognitivi per elaborarli. Quindi io sono dell'idea, e lo abbiamo fatto anche collaborando insieme a un volume per i piccoli, di coinvolgerli specie sulle malattie, perché come dire, la storia della medicina è una storia di successi. Se noi siamo qua è perché abbiamo sempre vinto con virus e batteri, quindi abbiamo anche uno strumento efficace per approcciare, che è quello proprio del successo della medicina, e quindi si possono toccare questi temi. Ma tra l'altro, Andrea, per aiutarli a superare qualche paura, naturalmente, che potrebbe anche essere comprensibile, forse potremmo dare ai nostri figli e anche agli ascoltatori, in questo caso, una piccola buona notizia, no? Cioè, a quanto sembra c'è qualcosa di diverso nel modo in cui l'organismo dei più piccoli risponde a questo virus, tant'è che fino a non più tardi di un paio di settimane fa non esistevano contagiati al di sotto dei 15 anni. Cioè, sembrano ammalarsi pochissimo i bambini. C'è una risposta che la scienza sta dando a questa? Sì, questo è vero, ed era vero anche, diciamo che, ecco, utilizziamo delle strategie di raccolta che potrebbero anche andare bene per i ragazzi. Certo. Diciamo che questa è la terza volta che questo tipo di virus, il coronavirus, fa il salto dall'animale all'uomo. C'è stato la SARS, è stato detto tante volte in questi giorni, più o meno nel 2002-2003, poi 10 anni dopo la MERS, e la SARS è sempre appunto in Cina, poi dopo c'è stata la MERS nel Medio Oriente, adesso questa è la terza volta, un'altra volta in Cina. E anche in questi casi, quindi questi fratelli, no, più vecchi del coronavirus, non erano così aggressivi nei confronti dei bambini, ed ero proprio a San Raffaele, ne parlavo col professor Clementi, e mi diceva appunto che nei casi passati, per esempio, hanno scoperto esami successivi che questo tipo di virus si annidava o in un caso sulle epitelio, cioè su una parte, diciamo, della superficie polmonare, e in altri casi nei reni, cioè, quindi diciamo, e utilizzava delle chiavi di accesso, cioè si agganciava, diciamo, a dei tessuti che erano tipicamente, diciamo, di persone più in là negli anni. Certo. Quindi questo sembra essere uno dei motivi, le risposte però, diciamo, ancora devono essere trovate. Mi pare che però la buona notizia vada data con enfasi. Certo. I bambini sono più forti di noi in questo caso. Però la buona notizia, insomma, la prima notizia da dare è quella, no, che ci dicevi prima, cioè spiegare ai bambini che ci sono risposte positive, che c'è la scienza, che è questo il vero antidoto, no, alla paura. In questi giorni ci chiedono che cos'è il coronavirus, ci chiedono perché è pericoloso e perché c'è questo allarme. Cosa possiamo dire? È pericoloso, il primo motivo è perché è un virus nuovo, e i virus, quando non si conoscono, sono molto pericolosi. Perché? Perché noi, con tutti gli altri virus, quello appunto del morbillo, dei cosiddetti orecchioni, parotite, rosolia, polio, noi li abbiamo ereditati quasi tutti dagli animali, molti anni fa, secoli e millenni. Pare che, un piccolo inciso, gli studi di orologio molecolare che sono stati fatti recentemente dicono che noi abbiamo assistito all'emergenza del virus, del coronavirus, intorno al 1300, quindi è un po' di tempo che circola, tanto per dire. Ma siccome noi sono tanti secoli che interagiamo con questi virus, abbiamo trovato un accordo con questi virus. Loro ci infettano e ci uccidono di meno e si diffondono di più. Questo è abbastanza tipico che i virus si tempestino, questo vale anche per i batteri. Cioè si trova un accordo reciproco, però quando sono arrivati hanno creato delle grandi epidemie e ci hanno sterminato. Perché quando un virus è abituato, come nel caso del coronavirus, a vivacchiare nei pipistrelli, i pipistrelli lo prendono come se fosse una specie, quello che è più o meno per noi un raffreddore, perché loro sono abituati, cioè sono morti, per dir così, i primi pipistrelli che sono stati infettati, questi qua sono già stati selezionati. A noi questa selezione ancora non è avvenuta nell'essere umano e quindi questo il sistema immunitario non li riconosce e quindi non riesce a combatterli, diciamo. Quindi questo è un problema. Poi c'è anche da dire che i virus in generale quando sono nuovi possono mutare molto e questo ci pone un interrogativo anche sul futuro, ecco. Quindi bisogna stare piuttosto attenti. La novità, direi, è quello che rende questi virus pericolosi. Ecco perché, mi si permetta di dire, è una leggerezza, per non usare una parola più forte, sostenere che questo virus è simile a quello dell'influenza. Non è assolutamente vero, ecco, diciamo, l'influenza si sa che ha un tasso di letalità allo 0,2%, qua siamo intorno al 2%, quindi un fattore assai più alto. Questo per dire che non è un virus pericolosissimo, è un virus comunque verso cui bisogna fare grande attenzione. Sì, poi ci sono naturalmente le varie fasce di età, no? Di letalità, dicevamo appunto fino ai 15 anni è quasi pari, è uno 0, qualcosa, dopo cresce con l'avanzare dell'età. Ti chiedo, Andrea, può essere questa un'occasione per parlare con i nostri figli di vaccini, spiegar loro a cosa servono, no? Questa è un... Sono molto d'accordo con questa idea e direi che è un'occasione per parlare di vaccini e anche di scienza in generale, perché non si può parlare di scienza solo quando siamo messi all'angolo da epidemie o da possibili epidemie o pandemie e poi dimenticarsene. La scienza ha bisogno di continuità e di fondi continui. Ha bisogno di fiducia da parte delle istituzioni e anche della popolazione, della cittadinanza. Quindi questo è molto importante. Di vaccini occorre parlarne senz'altro, perché l'unico strumento che noi abbiamo per prevenire le infezioni virali sono i vaccini. Adesso sì, è vero che c'è qualche antivirale, cioè qualche appunto farmaco che blocca in qualche modo la replicazione virale, cioè il fatto che questi poi si replichino e si diffondono nell'organismo, ma come vediamo sono poco efficaci e intervengono dopo l'infezione. La vera soluzione per tutte le grandi malattie infettive virali è quella dei vaccini. Ecco che in questi periodi appunto poi si vedono che le spinte di una piccola parte della popolazione che è contraria ai vaccini spariscono, perché quando aumenta il rischio delle malattie infettive tutte le resistenze della popolazione nei confronti dei vaccini svaniscono nel nulla. Ecco, sarebbe opportuno che noi invece ci ricordassimo che dobbiamo insistere nei confronti della scienza con grande costanza e fiducia. Andrea, un'ultima domanda. C'è questa parola nuova che è entrata nella nostra vita in questo periodo, che è quarantena, e soprattutto anche bambine e bambini vedono le scuole chiuse, come dicevamo prima, sorte di scelte, no? Coercitive anche, ti costringono a stare in casa. Ecco, che per un bambino o una bambina, insomma, può essere una cosa grossa questa, come va spiegata? Io la spiegherei rovesciando l'apparente, diciamo, idea dell'isolamento, della quarantena, con un principio, come dire, di socialità. In realtà chi sta a casa, e questo avviene anche un po' anche con i vaccini, cioè chi sta a casa non solo naturalmente diciamo protegge se stesso da eventuali contatti, ma protegge anche gli altri. Ecco, non andare, diciamo, evitare luoghi di possibile diciamo contagio è una tutela verso se stessi, ma va spiegata anche come una tutela verso gli altri. È un po' paradossale, perché l'isolamento sempre appunto, come dice la parola stessa, isolare gli individui, invece in questo caso è come un accordo sotteso che ci diamo tutti noi cittadini, ci diciamo rispettiamo delle regole comuni in modo che ci aiutiamo in questo modo per evitare che il contagio si diffonda. È un uso della comunità in solitudine. Ecco, io penso che questo possa essere una buona chiave per spiegare l'apparente paradosso dell'isolamento. Ringraziamo Andrea Grignoglio, docente di storia della medicina e bioetica all'Università Vita Salute del San Raffaele e al CNR, per essere stato con noi in questa puntata dei Padri Eterni. Grazie Andrea, ciao e buona domenica. Grazie a voi. Grazie Andrea. A tutti, grazie. Con il nostro tipico stile da montagne russe, dopo il coronavirus parliamo di felicità, che sembra strano, no? E lo facciamo parlando di lavoro, quindi wow, proprio quasi un ossimoro pare, invece no, lo facciamo con un bellissimo progetto che insomma credo che possa essere veramente illuminante, no? Per noi padri incasinati e anche per le madri incasinate, no? Nel cercare insieme padri e madri, compagni e compagne di mettere insieme il lavoro, i figli, la felicità personale, la felicità di coppia. Ma no? Anche perché tra l'altro tipicamente si parla di conciliazione vita e lavoro soprattutto per quanto riguarda le mamme, ma molto, molto meno spesso per quanto riguarda i padri. È un progetto che si chiama Distretto della Felicità. Il titolare è Luca Piscaglia, dello studio Piscaglia di San Mauro Pascoli, lui che ha ideato questo progetto sociale che mette insieme imprese, amministrazioni pubbliche, enti privati a favore appunto della conciliazione lavoro e famiglia. E volevamo capire di che si tratta e soprattutto prendere spunti, no? Per magari modificare anche la nostra quotidianità. Diamo il benvenuto a Luca Piscaglia, grazie per essere con noi, buona domenica. Buona domenica, ciao, grazie Luca. A voi, grazie dell'invito, ciao, grazie, grazie mille. Tanto Luca, sei felice? Cerco di esserlo il più possibile. Guarda che il distretto della felicità è proprio bella l'idea, no? Perché solitamente la parola distretto la si va ad abbinare a cose più commerciali, no? Qua invece ci metti questo elemento che è dirompente. E da dove nasce questa idea? L'idea nasce dalla necessità di riavvicinare i giovani al lavoro qua del nostro distretto, che è un distretto di calzature di altissima qualità, che un po' alla volta si erano allontanati. Allora ci siamo domandati perché e abbiamo identificato attraverso indagini, attraverso un lavoro che abbiamo fatto anche a Semitalia Lavoro, perciò al Ministero del Lavoro, il problema della conciliazione dei tempi, la conciliazione degli orari come uno degli esempi più importanti. I giovani oggi vanno a lavorare per l'aspetto retributivo, sia per la carriera, ma anche per cercare di conciliare i loro tempi di vita di lavoro. Luca, scusami, sì. No, ti fermi, a proposito di tempo, ti fermiamo un attimo, che è il momento della pubblicità del meteo, poi torniamo immediatamente da te. Padri Eterni. Olè, ecco, c'era la luce rossa ma non ero acceso io, un classico, oggi non avevo ancora sbagliato, ci tenevo per coerenza radiofonica e professionale a iniziare almeno un blocco col microfono spento. Buona domenica ancora da Federico Taddia e Matteo Bussola, eccoci qua con i Padri Eterni, Carmelo Lauricelli, il nostro tecnico sta ridendo insieme a Miriam Lucchetti, perché? Perché loro mettono le tacche di tutte le volte che io sbaglio questa cosa. E con noi è Luca Piscaglia, consulente del lavoro e ideatore di questo distretto della felicità. Siamo a San Mauro Pascoli. Luca, quando è che hai capito che stavi dedicando poco tempo ai tuoi figli? Qual è stato il segnale? Ma il segnale te ne accorgi quando diventano grandi. Ormai ho un figlio di 28, una figlia di 24, e quando loro sono diventati grandi ti rendi conto che hai dedicato troppo poco tempo a loro nella tua vita. Ed è l'unico rimpianto che ho nella mia vita. Dovessi ricambiare qualcosa, forse toglierei un po' di tempo al lavoro e lo dedicherei più a loro. Luca, senti, entrando un po' più nel concreto, Come funziona questo distretto della felicità e quante aziende coinvolge attualmente? Attualmente siamo una ventina di aziende, circa 2.200-2.300 lavoratori, ok, suddivise nel territorio, che hanno cambiato i loro orari di lavoro. Ossia, assieme all'amministrazione pubblica, col sindaco c'è un rapporto di amicizia che va da una vita. Quando gli ho detto questa necessità di riattivare i giovani, ho detto al sindaco: tu fai una cosa, tu cerca di cambiare i servizi sociali, io cerco di portare le aziende verso un orario un po' più razionale. Abbiamo fatto un orario che partisse dalle 8 del mattino e arrivasse alle 4 e mezza del pomeriggio, perciò continuato, ok, con una pausa molto corta, liberando i lavoratori prima, perché prima uscivano alle 6, 6 e mezza, con un lasso di tempo molto lungo. Quando io ho fatto questo è stato più facile anche per l'amministrazione pubblica cambiare degli orari. Ha cambiato gli orari nelle scuole, negli asili, ha cambiato gli orari nei centri diurni per anziani, permettendo anche agli anziani non residenti di entrare nelle residenze appunto per anziani. Abbiamo cambiato gli orari dei medici di base, abbiamo addirittura cambiato gli orari delle banche. Perciò quello che abbiamo fatto è ridisegnare le abitudini di un paese in un modello di orario che fosse più compatibile con la conciliazione, perché se occupiamo un lasso di tempo più breve, perciò dalle 8 del mattino alle 4 e mezza, permettiamo a quella mamma o quel babbo di portare il bambino a scuola alle 7 e mezza, andarlo a prendere alle 5 e avere il bambino che ha fatto la scuola, ha mangiato, ha fatto i compiti, ha fatto la scuola calcio, ha fatto tutto quello che deve fare all'interno di un progetto. Su questo tante cose abbiamo fatto e tante cose stiamo facendo. Ma la meraviglia pare essere, no, che questo naturalmente, oltre ad accrescere la felicità dei dipendenti, aumenta anche il loro rendimento poi. Questo assolutamente sì, è stato incredibile vedere come, ok, allora inizialmente abbiamo avuto un po' di difficoltà a portarci dietro anche i lavoratori, perché la paura del cambiamento delle abitudini che vanno avanti da una vita è molto complessa. Certo. Oggi la felicità è incredibile, abbiamo fatto nel 2018 un nuovo sondaggio tra le persone che hanno fatto questo tipo di progetto assieme a un progetto della regione Emilia Romagna, è emerso che il 98% delle persone sono contentissime di questo, non tornerebbero più indietro. Ma il bello è anche vedere come all'interno delle aziende effettivamente si è migliorata la qualità del lavoro, la produttività e anche la presenza al lavoro. Luca Piscaglia, lo ringraziamo per averci raccontato il distretto della felicità. Tutte le informazioni al sito ildistrettodellafelicita.it. Ciao Luca, grazie, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Ciao Luca, grazie. Buona domenica, grazie. Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io, che sono nato adesso, amore mio. Confesso che non so come si può afferrare il vento, è il tempo che non ti do, è tempo perso, voglio parlarti adesso. Solo per dirti che nessuno può da questo cielo in giù volerti bene più di me. Voglio parlarti adesso, prima che un giorno il mondo porti via i tuoi sorrisi grandi, giochi tra le porte, quell'idea che tu resti un po' mia. Non sarò mai pronto a dirti sì, ma quando vai sai che mi trovi qui. E quando il modo di aiutarti sarà non aiutarti più. Voglio parlarti adesso. Vorrei parlarti adesso. Chissà quante volte, no, lo abbiamo pensato, l'abbiamo detto, cercando i nostri figli, arrivando magari mentre sono lì che fanno i compiti, no, proprio quell'idea. Adesso gli parlo, adesso gli voglio dire quelle parole giuste. Ho pensato, meditato, rimuginato, poi invece arrivi e a volte cercando anche i nostri padri. È vero, siamo uno spiazzamento totale, invece queste parole giuste c'è chi le ha trovate e le ha anche musicate in questa bellissima canzone che è stata presentata a Sanremo, una canzone dedicata alla figlia, ma una canzone dedicata appunto alle relazioni. Diamo il benvenuto a Paolo Iannacci. Ciao Paolo, buona domenica. Buongiorno a tutti, buona domenica. Ciao Paolo. Quando le hai trovate queste parole? Sono relativamente antiche, perché sono state così create in comunione con un mio amico poeta che si chiama Andrea Bonomo, che è un paroliere ormai di fama internazionale, così. Io la butto sempre sullo scherzo, però lui è proprio bravo, e anche lui in quel periodo, 5 anni fa, aveva una bimba, come sarò io, di 5 anni, più o meno 6 anni, e ci siamo ritrovati a partecipare di questa emozione comune, di quella di avere un figlio e di farci delle domande ed essere in apprensione, ma anche felici di questa condizione. Il brano poi è nato veramente grazie all'idea del mio produttore, che si chiama Maurizio Bassi, è il produttore del mio papà, e con, tra l'altro, con suo figlio Emiliano Bassi ha scritto la musica. Quindi un lavoro corale, certo. Lavoro corale che ha mischiato generazioni ed emozioni. E tua figlia lo ricordi il momento in cui l'ha ascoltato questo pezzo per la prima volta? Lo ricordo, perché si è messa a piangere. Purtroppo era piccolina e ha detto: ma perché devo andare via dal papà? si è spaventata, capisci? Poi la tensione melodica era particolarmente struggente, quindi specialmente i bambini, che sono puri, hanno meno sovrastrutture, sentono di più le situazioni positive e negative, quindi si è emozionata molto. Senti Paolo, prima dicevamo le parole che si vorrebbero dire ai figli, ma a volte anche quelle che si vorrebbero dire ai padri, no? Tu a tuo padre ne hai dette non so quante, innumerevoli. Tu sei figlio di una leggenda. No, ti faccio la domanda che insomma è un po' la domanda in un certo senso canonica che si fa a tutti i figli d'arte, cioè tu oggi sei indiscutibilmente Paolo Iannacci, ma hai dovuto dimostrare qualcosa di più degli altri per riuscire a diventarlo, cioè il tuo nome ti è stato più di aiuto o forse qualche volta anche più di intralcio? Ma forse una comunanza di fattori, perché già quando all'inizio della mia carriera, quando papà, riconoscendomi delle potenzialità, del talento, mi aveva un po', come si dice, buttato nel mare per vedere se riuscivo a nuotare, questa metafora che però nel mondo dello spettacolo è molto viva. E all'inizio hai più attenzione, un grado di attenzione maggiore, ma devi comunque dimostrare di valere questa attenzione, questo è fuori di dubbio. Anche perché tu, tra l'altro, prima di diventare cantautore hai ancora un'affermatissima carriera come pianista jazz, quindi insomma. Ma, sì, insomma, io ci provo, nel senso che proprio quando c'era mio padre ci siamo volutamente divisi gli delle mansioni, gli certo. ambiti, proprio per non dare adito a gossip, a voci, poi anche per scherzare, tu fai cantante, canta, io suono. Che è una bella soluzione. Ma quindi tua figlia fa già la trap e fa musica elettronica dove si sta buttando? No, mia figlia 2 anni fa l'ho provata a suonare un po' il piano e ho detto: guarda che lei si chiama Allegra, ho detto: Allegra, guarda che sei brava. Allora lei si è pensato un attimo, sei brava, hai un grande orecchio. Talento. Lei ci ha pensato un giorno e poi mi ha detto: papi, noi siamo diversi. Ma Paolo, è più difficile o più bello sentirsi dire una cosa così da una figlia? È bello perché vuol dire che un essere pensante, logico, con proprie aspirazioni, con proprie idee, e quindi mi fa ridere, mi fa sorridere di piacere, così di perché mi fa emozionare ogni volta, poi chissà cosa farà. Esatto. Chiuderei con un momento di servizio pubblico. Sì. Hai ritrovato il portafoglio che hai perso su Red Carpet a Sanremo? No, no, però niente. Sto rifacendo i documenti e quelli. Vabbè, ti tocca, sì. Questa, sì. Sì, è la tragica quotidianità. Grazie davvero e complimenti a Paolo Iannacci per essere stato qua con noi oggi, ai Padri Eterni. Grazie a voi dell'attenzione. Ciao Paolo. Grazie, ciao, Paolo, un abbraccio. Ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua in diretta su Radio 24. Padri Eterni. Bella e seducente, è solo mia, sempre più attraente, non resisto e così sia. Con quella sua linea essenziale ed elegante, possederla un'esperienza intensa ed esaltante. Da quando l'ho incontrata non sono più lo stesso, la mia vita è migliorata, non sono mai depresso. Ogni santo giorno ho una gran voglia di saltare, con un balzo in sella e cominciare a pedalare. Pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare. Con la sua meccanica semplice e perfetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Con la bandierina, lo specchietto e la trombetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Se ne va a fare la spesa col triciclo la vecchietta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Con il campanello, col cestino e la pompetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Vola sopra il... L'abbiamo chiesto poco fa Paolo Iannacci, no? Cosa significa essere figlio di una leggenda? Beh, stessa domanda credo che la potremmo fare anche al prossimo ospite. Diamo il benvenuto ad Alessio Bugno, figlio di Gianni Bugno. Ciao Alessio, buona domenica. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno Alessio. A tutti gli ascoltatori. È faticoso essere figli di una leggenda? A tratti, diciamo. Diciamo che quando si è nel mondo del ciclismo e dello sport in generale si fa subito il collegamento rapido, quindi però io sono orgoglioso del mio cognome, di quello che ha fatto mio papà nel passato. E qui con noi abbiamo anche la leggenda, diamo il benvenuto anche a Gianni Bugno. Ciao Gianni, buona domenica. Ciao a tutti voi, tutti ciao gli Gianni. Ascoltatori. Ciao Ale. Abbiamo padre e figli insieme, perché? Perché insomma è stata presentata questa bicicletta ideata, realizzata proprio da Alessio. Alessio, ti è venuta l'idea di dedicare una bici, sì, a papà? Sì, no, la verità è proprio questa, perché mio padre, molti di voi sapete com'è, molto schivo e riservato e non ha mai voluto amplificare più di tanto ciò che ha fatto nel mondo del ciclismo. Quindi era quest'estate che ne parlavamo del più e del meno e abbiamo visto appunto che quest'anno cadeva proprio il trentennale della sua impresa al Giro d'Italia e ho deciso di fargli un piccolo regalo, un regalo di fondi appassionati di ciclismo, creando questa bicicletta edizione limitata di 90 pezzi. Beh, tra l'altro con una componentistica di altissimo livello, cioè proprio una bicicletta coi fiocchi. Il nome, no? Bugia Rosa. Sì, abbiamo giocato sul cognome. Sul cognome. Il nome di papà. È stata una sua idea dove io ho voluto dargli ascolto nella diretta e nonostante magari a molti a livello di marketing, no, questa parola bugia che potrebbe risultare anche negativa, però siamo andati oltre a questo, abbiamo deciso di farla col cuore e ho voluto anche proprio ascoltare l'idea di mio padre e chiamarla così. Gianni, questa domanda la faccio prima al papà, poi al campione. Cosa si prova nel vedere che insomma, un figlio vuole dedicare un qualcosa al padre, una sorta di gratitudine, una sorta... Sì, è vero, c'è anche tutto l'aspetto commerciale, c'è l'aspetto della bicicletta, c'è l'aspetto dell'attività, è vero, però c'è un sacco di affetto anche in questa scelta, no? Ah, sicuramente sì, è fatto molto col cuore, sono passati 30 anni, l'età di mio figlio, gli anni sono passati purtroppo e quindi... rimangono i ricordi, i bei ricordi che appunto sono legati a questa idea di Alessio, mio figlio, che ha avuto di fare questa bicicletta a edizione limitata, e quindi è un bellissimo regalo, un bellissimo ricordo. Ma Gianni, adesso questa è la domanda cattiva che si fa sempre al campione, ma tu avresti sognato un figlio campione? Ma mio figlio è un campione per me. Ho due figli di cui sono orgoglioso e non hanno bisogno di dimostrare che sono dei campioni, per me lo sono da quando sono nati, quindi non è che sono qua, sono i miei figli, quindi. Grazie comunque. Beh, Alessio, direi che c'è di che essere orgogliosi di questa risposta di tuo padre. Senti, questa bicicletta, dicevamo, edizione limitata a 90 pezzi, ma la ragione dell'edizione limitata è che è realizzata solo ed esclusivamente sulle misure del singolo cliente, cioè è proprio una bicicletta su misura. Sì, esatto, è tutto su misure antropometriche del cliente, dove noi la realizziamo proprio ad hoc per il cliente. Abbiamo voluto proprio avere il massimo, il cliente deve avere il massimo da questo prodotto, che oltre alla bicicletta è composta anche dalla borsa Chicon, con cui abbiamo fatto ci ha donato il proprio marchio. Noi abbiamo allogato il nome di mio padre sulle borse Chicon, e inoltre anche un abbigliamento tecnico firmato sempre da Bugia, che noi poi settimana prossima lanceremo anche i Bugia Wear, che saranno tutti prodotti di alta gamma di abbigliamento tecnico. Sì, e poi naturalmente il colore, l'unico colore, diciamolo, non poteva che essere il rosa. No? Sì, ci saranno sulla bicicletta, ci saranno richiami chiaramente al rosa, che sarà l'unico colore presente sulla bicicletta, perché tutto il resto è il prodotto telaio grezzo e levigato, proprio le scritte sono levigate sul titanio, quindi non c'è nessun tipo di possibilità che il prodotto si rovini. Gianni, il ciclismo è uno sport strano, perché ci sono tantissime storie di padri e figli, ma al di là dei campioni, no? Proprio anche nella quotidianità, padri e figli legati da questa bicicletta, che uno pensa sia uno sport individuale. E invece qual è la magia del ciclismo? Come mai che riesce a legare così tanto, secondo te? Ma è uno sport che si fa generalmente da soli, si è sempre da soli, però si trova in gruppo per fare le corse, le gare, gli allenamenti, la squadra è una componente per la vittoria finale, cioè se tu non hai una squadra che si adegua a te non riesci a vincere, non vincere mai da solo, quindi sì, è uno sport individuale, ma è uno sport di squadra fatta da tanti compagni che ti aiutano a vincere. Io non ho mai vinto un Giro d'Italia se non avessi avuto una squadra come competitiva, grazie anche ai miei compagni di squadra che sono riuscito a vincere questo Giro d'Italia. Certo, ringraziamo davvero Gianni Bugno ed Alessio Bugno. Grazie per essere stati qua con noi, complimenti per il vostro rapporto, che si sente dalle vostre parole che è bello, stretto e sincero. Grazie ancora, buona domenica, ciao. Grazie, ciao, ragazzi, buona domenica, ragazzi. Ciao. Questa puntata la vogliamo concludere ascoltando l'audio di un video che è girato tantissimo in rete, un video tragico, perché si parla di guerra, si parla di bombe, si parla di una quotidianità fatta di sofferenza e di paura, però è anche un video meraviglioso. Indubbiamente. Perché c'è un sorriso che vince su tutto questo. Pito Yara, lei Qazifi? Qazifi? كيف يضحك ماو؟ كيف يضحك؟ Salva ha 3 anni e il suo papà ha inventato un gioco, ed è quello di ridere tanto, ridere insieme ogni volta che si sente il suono drammatico di una bomba, facendolo credere, no, che siano dei fuochi d'artificio. È un po' come faceva, no, in quel film Roberto Benigni, quando cercava di proteggere il suo bambino dall'orrore dell'Olocausto. Insomma, ecco, è un video che ha fatto riflettere, credo, molte persone. Eh sì, perché c'è questo contrasto, no? Che è proprio quanto le forze delle parole, di questo abbraccio, di questo camuffare, no? Camuffare la realtà, perché in quel caso è vero che stai dicendo altro, stai raccontando una bugia, però quella bugia è la salvezza per Salva e per il suo sorriso sincero. Quindi volevamo veramente chiudere con un abbraccio a questo papà, perché capiamo, no? L'enorme sforzo sicuramente che fa, che ha fatto e che sta facendo sotto quelle bombe. E con questo audio chiudiamo questa puntata. Grazie a tutta la squadra dei Padri Eterni, a Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, Miriam Lucchetti oggi in assistenza, Carmelo Lauricella alla parte tecnica, padrieterni@radio24.it se volete contattare la nostra redazione con idee, suggerimenti, storie e critiche. Accettiamo di tutto. I Padri Eterni di Radio 24 invece alla nostra pagina Facebook, radio24.it il nostro sito. Ciao Matteo, buona settimana. Buona settimana a te. L'appuntamento come sempre a domenica prossima alle 11 con i Padri Eterni. Ciao! Ciao!